Cosa faremo nel futuro non lo so. E se alzeremo un altro muro lo salterò. Se non ci avranno fatto ancora niente, il mio posto sarà ancora accanto a te. E ci sarà un'altra notte a cui daremo un senso, un fuoco che rimane sempre acceso. Droni che arrivano e oscurano il cielo, bambini felici che gridano in coro, ce li hanno portati davvero. Oh, droni che cadono in volo leggero, chissà se poi basteranno per tutti. Andiamo a vedere se è vero, vediamo se è vero che siamo al sicuro. Siamo al sicuro. Usciamo tutti fuori in fila ad uno, la guerra è già finita, non sparano a nessuno. Soldati immaginari che tornano nel buio, li abbiamo spaventati ridendo a muso duro. Un'altra notte a cui daremo un senso, un fuoco che rimane sempre acceso.